blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ci deve essere pure un posto migliore. Sì, c'è. Mi ci sono trovato. Io? Scusa, parlavi con me? Esiste un posto migliore. In Settopia. Oh, davvero? Svitato a ore 3. Non puoi capire finché non ti ci trovi e non lo vedi da te stesso. Puoi essere una formica libera lì. Le strade sono pavimentate di cibo. Nessuno che ti dica cosa fare. Niente guerre. Niente colonia. Inizio oggi la puntata esattamente come la iniziai un anno fa, anche perché non è che siano cambiate molte cose. Oggi è noto la giornata internazionale di consapevolezza sull'autismo voluta dalle Nazioni Unite. Oggi tutti illumineranno i monumenti di blu, si scenderà in piazza, si faranno convegni, ci saranno tagli di nastro, pubbliche rappresentazioni, ma gli autistici stanno sempre lì. Non è che sia cambiata molto la situazione in un anno. E oggi riprendo il filo del discorso lasciato un anno fa con l'idea di Insettopia. Ricordate, è il luogo utopico che sognano molti genitori di autistici, dove i loro figli possono stare piacevolmente, facilmente inclusi nel resto della società, non soltanto formalmente, non soltanto con un'etichetta addosso. Abbiamo le più belle, favolose, fantastiche leggi di inclusione scolastica, ma nel corso di questo anno non ho altro che sentito proteste, lamentele, genitori che in fondo, al di là di quella che è l'impeccabile norma, poi hanno dei problemi quotidiani, problemi piccolissimi. Ti cambiano un operatore al pulmino che ti porta il figlio a scuola, improvvisamente nasce un problema, ci si rende conto che improvvisamente il proprio figlio è oggetto di atti di bullismo nei compagni, non capiscono le sue differenze. Le cronache hanno costellato tutto quest'anno di episodi negativi, ma in fondo vediamola anche in positivo. Cerchiamo di capire questa giornata dedicata all'autismo cosa possiamo dire di diverso, dire di più, dire speranza per i tanti genitori che ci ascoltano, sanno che in questo spazio, per contingenze familiari, c'è una persona particolarmente sensibile ai loro problemi. Beh no, qualcosa di nuovo rispetto all'anno passato c'è, e ve lo dico tra un istante. Lucia, Gabriella, Corinna, Roberta, Linda e Alessandra, a ognuna di voi chiediamo: quando e come hai avuto la certezza del problema di tuo figlio? Prestissimo, sono stata molto fortunata, perché io mi sono accorta e ho sospettato delle sue stranezze intorno ai 9 mesi. E dopo aver accertato che non fosse sordo, in quanto la prima cosa che ho fatto è questo tipo di indagine, tutti mi dicevano: beh, vedi, sei contenta, non ha nessun problema. E dico: no, se non è sordo ha qualcos'altro. La mia fortuna è stata che di lavorare in ospedale. Io sono un avvocato della Roma E, e accanto a me avevo in stanza un psichiatra molto bravo che mi disse: non perdere un attimo, e mi mandò a Via De Sabelli. Via De Sabelli è l'istituto di neuropsichiatria. Sì, è un istituto che tutti abbiamo visto, conosciuto, uno dei passaggi delle forche caudine di ogni famiglia d'autistico, almeno nella capitale d'Italia. Ci si passa lì, ma non cambia poi molto la situazione. Se questa signora non avesse avuto un fortuito incontro con uno psichiatra, magari ancora starebbe lì a girare, a aspettare, a sentire le mamme, le nonne, perché il primo vero problema è proprio la diagnosi e accettare di avere un figlio autistico e trovare qualcuno che sia in grado di dirtelo, di diagnosticartelo, che non ti faccia perdere tempo. Ecco, se io avessi avuto un'occasione 17 anni fa di avere qualcuno che mi dicesse subito: guarda, tuo figlio ha dei problemi, avrei perso molto meno tempo e mio figlio oggi magari parlerebbe. O perlomeno, se avessi avuto tra le mani il libro che ho tra le mani adesso, forse la mia vita sarebbe stata molto più facile. Perché la novità è questa: finalmente, in parte su mia profonda e violenta istigazione, è uscito il libro che tutte le famiglie dovrebbero avere in mano. Il libro che spiega in maniera chiara, concreta, appassionata ma non illusoria, cosa sia l'autismo e cosa bisogna fare quando si ha un figlio autistico. Un libro che conviene anche dare alle persone che hanno un ragazzino un po' strano, che non parla, con delle stereotipie, con dei comportamenti un po' diversi dagli altri bambini, e dicono: no, sai, è un po' timido, poi gli passerà. Beh, c'è l'augurazione che gli passerà, ma potrebbe anche non passargli mai, e quindi prima ci pensano e meglio è. Luigi Mazzone, buongiorno. Buongiorno. Luigi Mazzone è un ricercatore del Bambin Gesù, si occupa di neuropsichiatria infantile e autore del libro Un autistico in famiglia, Mondadori, le risposte ai problemi quotidiani dei genitori di ragazzi autistici. Luigi Mazzone, tu quanti ne vedi di autistici in media durante la settimana? Beh, in media durante la settimana anche 10-15 bambini autistici alla settimana. C'è un tratto comune che ti preoccupa nell'atteggiamento dei genitori verso la diversità del loro figlio? Il tratto comune che mi preoccupa dei genitori, forse la mancanza di avere un programma specifico davanti, quello che un po' è lasciato all'improvvisazione, ecco, loro fanno fatica a sentirsi presi in carico da un'istituzione, fanno fatica a sentirsi presi in carico da un progetto che sia un progetto poi di vita per il loro figlio, ecco, questo è il tratto comune. Ecco, quali sono le parole che usi per far capire, per cercare di dare la notizia a una famiglia, a una madre, a un padre, che in realtà il loro figlio ha un problema che si porterà dietro per tutta la vita, non è una cosa passeggera? Ma non ci sono grandi giri di parole, cioè in questi casi quando si arriva a fare una diagnosi di disturbo dello spettro autistico bisogna chiamare le cose col loro nome, non si possono usare altri termini, anche perché il riuscire a chiamare le cose per il loro nome è il primo passo verso un aiuto concreto alla famiglia. Non si può prendere in giro la famiglia dicendo che ci sono altre cose che non esistono, che i problemi sono più soft di quelli che ci sono. Solo attraverso un primo momento di consapevolezza importante inizia l'aiuto serio al proprio figlio, per cui quando si parla di disturbo dello spettro autistico bisogna dire: signora, siamo in presenza di questo problema, di prospettive ce ne sono, perché è vero che in molti casi, soprattutto per l'autismo ad alto funzionamento, le prospettive sono buone, però è giusto chiamare le cose col loro nome. Ecco, cosa hai voluto mettere in questo tuo libro, che è molto più di un manuale, è un compendio ragionato dove punto per punto ci sono tutte le cose che è bene sapere, se si ha il sospetto che un figlio sia autistico, se ha la certezza che un figlio sia autistico, se si ha già un autistico in famiglia anche di età avanzata, ma finora non ci si sente soddisfatti di quello che attorno a noi circola per risolvere, per aiutarci nei problemi dei nostri figli. Ma in questo libro sostanzialmente c'è l'esperienza di tutti i giorni, ci sono episodi da cui poi nasce il pensiero critico rispetto a un possibile aiuto nei confronti della famiglia. Si parte dalla diagnosi, dal percorso di accettazione diagnostico, a una quotidianità che cambia, perché la quotidianità necessariamente cambia al momento in cui arriva una diagnosi di questo tipo, fino alla scuola, l'inserimento a scuola, l'accettazione dei compagni di classe nei confronti di un problema, gli insegnanti, come si pongono gli insegnanti e come le famiglie si devono porre nei confronti della scuola, fino ad arrivare a dei problemi più tipici dell'adolescenza, quale può essere la gestione della sessualità, la gestione di un adolescente che vuole anche lui fare le sue esperienze, ed è giusto che le faccia, perché è giusto che abbia le possibilità di uscire, è giusto che abbia le possibilità di condividere delle attività sociali, perché si possono condividere attività sociali, fino ad arrivare alla fine del libro a quello che è un po' l'angoscia di ogni famiglia del famoso dopo di noi, no? Ecco, più o meno l'excursus è questo, partendo da spunti pratici che sono realmente capitati. Ecco, il grande problema che pongono sempre tutti i genitori è non trovare mai una risposta univoca. Di solito si fa il giro delle sette chiese, tu adesso non immaginare persone che vivono in città grandi, ci sono centri di neuropsichiatria specializzati dove è facile trovare comunque degli interlocutori. Il nostro paese è grande, sparpagliato, ci sono ancora medici che mettono le famiglie in terapia psicoanalitica familiare, ci sono ancora medici che dicono che è colpa dei vaccini, ci sono ancora medici che ti fanno perdere tempo. Ecco, come mai in Italia non esiste una certezza scientifica nei confronti dell'autismo? Ma la certezza scientifica in realtà per certi versi esiste, nel senso che si sa che è un disturbo del neurosviluppo, si sa che è un disturbo neuropsichiatrico, che non è un disturbo gastrointestinale che poi ha ripercussioni sulla psiche, come alcuni vogliono far credere. C'è questa cosa delle diete, una gran parte di persone che conosco si rivolgono a me perché ormai sanno che tratto di questo argomento, hanno questa illusione che disintossicando i figli attraverso una dieta gli passa l'autismo. Sì, c'è un un capitolo nel libro in cui faccio riferimento a cosa credere e cosa non credere. Molti raccontano anche un episodio di un padre che è venuto in ambulatorio e mi ha detto: dottore, voi dovreste leggere questi articoli scientifici, dovreste essere più umili. Ecco, io nel libro dico, ok, con questo padre sono d'accordo sul fatto che magari potremmo essere più umili, ci mancherebbe, molti miei colleghi potremmo forse fare un passo indietro rispetto a molte problematiche, però è sicuro che la scientificità non può essere legittimità di genitori, perché un articolo scientifico, gli articoli scientifici non sono tutti uguali. Io dico, è come se un editoriale che appare sul New York Times o sull'Eco di Enna abbia la stessa valenza. Non è così, il New York Times ha una valenza diversa, e nello stesso senso a livello scientifico avere un articolo pubblicato su Science, su Nature, non è la stessa cosa che averlo sul Journal Open Psychiatry, dove magari paghi e l'articolo viene pubblicato. Ecco, i genitori non hanno questa possibilità di discernere, e questa possibilità di discernere si ha solo attraverso un background e solo attraverso un percorso scientifico che si è fatto. Oggi è molto più facile pensare che esista una sorta di grande complotto dietro la scienza ufficiale, e di cui l'autismo è uno dei primi centri di attenzione. A me molti genitori cominciano a guardare rete, a seguire, a quali diventano loro stessi esperti di autismo più di quanto lo siano le persone che studiano, e pensano sempre se qualcuno dietro non te la dice giusta, e intanto perdono tempo, intanto i figli rimangono a caso, intanto i figli fanno terapie inefficaci. Tratti questo del tuo libro? Sì, la psicosi del complottismo, no? Cioè come se ci fosse un grande vecchio dietro tutti noi che muove le marionette in base a un progetto occulto che sia quello sempre soltanto di fare soldi. Non è così, nel senso che tutti noi, ripeto, io anche nel libro dico, io ho avuto la fortuna di stare quasi 4 anni negli Stati Uniti, ho visto ricercatori giovani con l'unico ideale di portare avanti un contributo per la ricerca, passare giornate e notte intere a studiare, non perché c'era una casa farmaceutica che lo sponsorizzava, perché aveva il piacere e la voglia di dare un contributo alla scienza. Non esiste un grande vecchio dietro, esistono dei dati oggettivi che magari ancora sono pochi, ma quello su cui dobbiamo mirare è avere un'oggettivizzazione di risultati. Potrebbe anche essere giusto che domani ci sia una dieta particolare che aiuti l'autismo, ma tutto questo deve essere dimostrato con dati scientifici, replicato da altri gruppi di ricerca nel mondo. Al momento in cui ci saranno delle evidenze scientifiche, potremmo dire con certezza che quella è una cosa che aiuta l'autismo. Al momento non esiste. Fermiamoci un istante per il traffico, poi riprendiamo con Luigi Mazzone, ricordo autore di Un autistico in famiglia, Mondadori, le risposte ai problemi quotidiani dei genitori e dei ragazzi autistici, oggi nella giornata internazionale dedicata alla consapevolezza sull'autismo. Melog, cronache meridiane. Lucia, Gabriella, Corinna, Roberta, Linda e Alessandra. A ognuna di voi chiediamo: quante persone ti stanno vicino nell'accudimento di tuo figlio? Ci sono degli operatori che mi danno una mano in determinate giorni della settimana. E purtroppo lo aiuto è sempre poco rispetto alle esigenze del bambino. Diciamo che io in prima persona sono la persona che si occupa di mio figlio. Io lavoro per poche ore al giorno, non ho una giornata completamente dedicata al lavoro, lavoro per circa 3-4 ore al giorno. Questo mi consente di potermi dedicare a mio figlio nelle terapie, nell'accompagnamento. Antonio in questo momento ha bisogno di fare tante cose. Il momento in cui ci fermiamo e li lasciamo diciamo a se stessi, ci accorgiamo subito che c'è una regressione, per cui loro hanno bisogno di tanti stimoli. Poi probabilmente per lui in particolare questo momento è ancora molto fertile, più tempo gli si dedica. Questa è una delle mamme che avevo già proposto l'anno scorso. In quest'anno sono cambiate le cose. Sì, Antonio, figlio di Lucia, quest'anno era stato lasciato a casa in una giornata di festa in cui tutta la sua scuola andava a festeggiare il Presidente della Repubblica. Lucia ce l'ha detto, abbiamo fatto un po' di casino, nel giro di poche ore è stato chiamato anche lui al Quirinale e potrà stare insieme agli altri amici. Sì, perché è molto facile portare in giro bambini multietnici, divertenti, simpatici, di culture diverse, perché non fanno casino, non scocciano. Un autistico va gestito, e di fronte alla gestione dell'autistico cadono un po' tante buoni propositi. Perché? Perché bisogna imparare, studiare. Per gestire un autistico ci vuole gente che abbia studiato come si gestiscono gli autistici. Non è impossibile, non è difficilissimo, bisogna studiare. Dareste un'automobile in mano a una persona senza patente, dareste un autistico in gestione a un educatore che non sa nemmeno da che parte iniziare, che non ha fatto degli studi di terapia comportamentale? Beh, questo accade molto spesso in Italia. Faccio un annuncio oggi, lo faccio spassionatamente, non me ne viene niente in tasca, lo facciamo soltanto per la felicità di un giorno di tante famiglie. Oggi anche insieme a Gigi Mazzone raduneremo famiglie e ragazzi autistici in uno dei più bei musei d'arte di Roma, che è il Maxi a via Guido Reni. E in questa giornata vogliamo che i nostri figli siano opere d'arte, esporremo i nostri figli all'interno del museo, faranno delle attività a loro piacevoli, per loro piacevoli, i genitori parleranno, forse verranno anche due ministri a ascoltarci. Ci saremo io e Gigi Mazzone oggi al Maxi dalle 18 alle 20. Riprendo a parlare con Mazzone, che ricordo che è un ricercatore del Bambin Gesù, un neuropsichiatra infantile, è stato anche all'estero molti anni, che si occupa concretamente di autistici. Ha scritto un libro che dovrebbe essere nelle mani di ogni famiglia che ha un autistico in gestione. Il titolo è Un autistico in famiglia, editore Mondadori, le risposte ai problemi quotidiani dei genitori di ragazzi autistici. Qualcuno non maligni, la prefazione l'ho fatta io, ma lavoriamo allo stesso problema e lavoriamo per le stesse persone, non è che facciamo pubblicità a un nostro prodotto editoriale perché a me almeno me ne venga qualcosa in tasca. Allora, questa mamma che anche tu conosci parla del problema quotidiano delle famiglie. L'autistico all'80% è un carico che va sulla famiglia. Più cresce il ragazzo, più la famiglia si indebolisce. Arriva un punto fatidico, che io conoscerò tra poco, in cui l'autistico diventa maggiorenne. Si ricomincia da capo. Ho parlato ieri con una madre, dice: mio figlio è stato azzerato. Al compiere 18 anni non è più autistico, non diventa un'altra cosa. Ricominciamo a fare l'analisi, a fare le diagnosi, a vedere, ma improvvisamente diventa un fantasma. Mio figlio non ha più nemmeno la dignità di essere definito per quello che lui è. Sì, la cosa che dispiace è che dall'anno scorso a oggi è cambiato poco o nulla. Questo mando le stesse mamme, non è cambiato niente. Il dramma serio è questo: noi continuiamo a fare 2 aprile, che va benissimo, un giorno di consapevolezza, che se dall'anno prossimo non si adopera per un obiettivo, per degli obiettivi ben precisi, ha anche poco senso farlo. Cioè, forse è più utile che stamattina io resti in ospedale a fare il mio solito day hospital, piuttosto che fare il giro delle 7 chiese. E per cui la speranza per il prossimo anno è che veramente cambi qualcosa, perché dall'anno scorso a oggi i problemi sono identici, come quelli che dicevi tu, no? Nel senso che la soglia dei 18 anni, no? Il ragazzo che inizia a fare ad essere in una fascia adulta anche a livello sanitario, che di fatto perde la sua legittimità ad essere anche quello che era stato diagnosticato autistico. Tutti i centri dove è portato dicono: ormai è grande, non sappiamo più diventa, che fare. Diventa psicotico, diventa schizotipico, diventa ritardato, diventa tutto tranne quello matto generico, quello che si era costruito tutto sommato, e quello anche che la famiglia era riuscita ad accettare. Per cui un problema serio, per esempio, potrebbe essere quello della formazione di psichiatri che finalmente dovrebbe essere consapevoli del problema autismo, che non è una persona diciottenne, diciannovenne, trentenne da tra virgolette impasticcare con degli psicofarmaci. Assolutamente no, i farmaci non aiutano le persone con autismo, se non in casi ben specifici, in casi di comorbidità, ma in generale i farmaci non servono ai ragazzi autistici. E purtroppo un uso comune, ahimè, è quello che molti psichiatrici pensano, che l'autistico è una sorta di psicotico per cui dovevano prescrivere subito i psicofarmaci, per cui ragazzi autistici che non hanno mai preso un farmaco nella loro vita arrivano a 20 anni lo psichiatra prescrive farmaco, ed è delittuoso tutto questo. Io mi sono sentito parlare di un termine che poi non ha avuto nessuna verifica, il post-autistico. Mi ha detto: lei è padre di un post-autistico, è molto interessante, mi ha detto questo luminare a cui avevo sottoposto alcune storie. Non immaginavo che i post-autistici potessero rimanere in famiglia, si immaginava che probabilmente andavano in qualche discarica per rifiuti umani non più attivi, non so che fine dovranno fare, rimangono in famiglia e rimangono fino tanto tempo. Lucia, Gabriella, Corinna, Roberta, Linda e Alessandra, a ognuna di voi chiediamo: hai pensato al futuro di tuo figlio quando tu non ci sarai più? il pensiero del futuro di Giacomo è nostro, è continuo, è frequente, è sempre nella nostra testa, soprattutto ora che ha le fattezze di un bel ragazzo di 18 anni pieno di energia. Per noi genitori è un chiodo fisso pensare quale sarà il loro posto in questo mondo. Ad oggi non c'è nulla di sicuro, nulla di adatto a loro, se non centri diurni mal gestiti e un po' tristi. Questa è la situazione, Luigi Mazzone. Però qualcosa avete fatto, te e alcuni tuoi colleghi vi siete in qualche maniera consociati contro tutto e contro tutti, però si comincia a parlare di una comunità scientifica specificamente dedicata all'autismo. Sì, abbiamo provato a metterci insieme, abbiamo fondato l'Associazione Italiana Ricerca Autismo, AIRA, e l'obiettivo dell'AIRA è quella di dal prossimo anno raccogliere dei fondi per portare avanti progetti di ricerca che possono concretamente dare una mano al futuro delle famiglie, dei ragazzi, e creare dei progetti ben specifici. Allora, quelli che i figli già ce li hanno in casa, ce l'hanno grandi e ti pongono un problema come quello di questa nostra amica, cioè sì, ma so che al di là del centro diurno, del passatempo, mezza giornata a infilare le perline, cosa si può inventare e costruire per questi ragazzi una volta cresciuti, una volta rimasti a carico totale della famiglia? Allora, il primo punto è, secondo me, cambiare la consapevolezza degli operatori sanitari rispetto al problema autismo nell'età adulta. Un ragazzo autistico che diventa adulto autistico può migliorare e crescere nel suo autismo integrandosi il più possibile nel contesto sociale. Non è vero che finiscono le terapie e non c'è più niente da fare. Continua tutta la vita, l'abilitazione alla vita. Non esistono, io dico sempre, non esistono ragazzi senza risorse, casomai esistono terapisti e operatori sanitari senza idee, per cui non esiste. Tutti possono assolutamente migliorare. La prima cosa è questa, la seconda cosa è cercare di creare dei posti dove l'integrazione sia reale, non sia utopica come molti ci vogliono far credere, trasformare dalle parole ai fatti, perché sennò è inutile continuare a celebrare il 2 aprile parlandoci addosso di questo problema. Ecco, vedremo se l'anno prossimo saremo ancora qui a parlare di insettopia, a parlare di utopie con Gigi Mazzone. Intanto oggi, se volete, dalle 18 alle 21 siamo al Maxi, via Guido Reni a Roma. Grazie Luigi Mazzone. Grazie. Ricordo, un autistico in famiglia, editore Mondadori.